La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato al massacro di Sabra e Shatila, avvenuto a Beirut nel settembre 1982, ad opera della falange libanese maronita. Ospite ai nostri microfoni Marcella Emiliani, autrice del libro Medio Oriente, una storia dal 1991 ad oggi, edito dalla Terza. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato alle strategie di alleanza dell'imperatore di Germania Guglielmo II verso il mondo islamico in chiave anti-inglese all'alba della Prima Guerra Mondiale. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. Tra il 16 e il 18 settembre del 1982, un numero tuttora imprecisato di palestinesi, si disse dagli 800 ai 3500, furono massacrati nei campi profughi di Sabra e Shatila a Beirut. La maggior parte erano bambini, donne, anziani. Il massacro, messo in atto dalla falange libanese maronita, avvenne, per quanto fu possibile accertare, con la complicità dell'esercito israeliano che occupava allora il Libano. I soldati, i capi militari e il governo stesso di Israele favorirono l'ingresso delle milizie nei campi e non arrestarono il massacro, che andò avanti per 2 giorni. Un massacro, quello di 30 anni fa, che si consumò in 2 giorni nel colpevole silenzio della comunità internazionale. Il ministro della difesa israeliano allora era Ariel Sharon, futuro primo ministro. Il suo ruolo nella strage, fino in fondo, non è mai stato chiarito. Una pagina tristissima del lungo conflitto medio orientale. Quello che stiamo per ascoltare ora è un brano del film di animazione Balzer con Bashir del 2008, scritto e diretto da Ari Folman. Nei cortili di Sabra e Shatila c'erano tantissimi corpi di donne e di bambini. Prima sparavano agli uomini e poi finivano il lavoro con il resto della famiglia. Entriamo in un vicolo molto stretto. Così stretto che può passarci a malapena una persona. Pieno anche quello di cadaveri, tutti ammonticchiati gli uni sugli altri. Così tanti da non poterli contare, mi arrivano fino al petto. Tutti giovani uomini. Inizio allora a rendermi conto delle dimensioni del massacro. Oggi il campo profughi di Shatila, Sabra è in realtà la strada da cui si accede a Shatila, non un campo vero e proprio, quasi lo stesso di 30 anni fa. L'area è abitata attualmente da 17.000 persone che vivono stipate in poco più di 1 chilometro quadrato. Per far fronte alle necessità abitative, le case vengono costruite in verticale, le strade sono strette, il cielo quasi non si vede. L'esercito israeliano aveva invaso il Libano il 6 giugno. Pochi giorni dopo il cessate il fuoco, negoziato dagli Stati Uniti, prevede l'evacuazione da Beirut dell'OLP di Arafat, i cui militari erano asserragliati nella parte occidentale della capitale. L'11 settembre Ariel Sharon ribadisce che 2.000 terroristi palestinesi restavano nascosti nei campi per i rifugiati. Il 14 settembre una bomba esplode nella sede del partito falangista. Il neopresidente libanese, il cristiano maronita Bashir Gemayel, viene ucciso. La sua elezione aveva fatto sperare nella fine di una guerra civile che devastava il paese dal 1975. Proprio questo assassinio servirà da pretesto al massacro, una vendetta dei falangisti cristiani, ma con l'accertata complicità dell'esercito israeliano, che circondò i 2 campi e lasciò entrare i miliziani. La commissione d'inchiesta israeliana che fu insediata dopo il massacro riconobbe, ma solo in parte, la responsabilità indiretta di Ariel Sharon nel massacro che 30 anni dopo resta impunito. Abbiamo in linea Marcella Emiliani, mediorientalista, autrice del libro Medio Oriente, una storia dal 1991 a oggi, pubblicato dalla Terza. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi. Partiamo proprio da quest'ultimo aspetto relativo alla commissione d'inchiesta israeliana. A quali conclusioni giunse? Vabbè, innanzitutto bisogna premettere una cosa. Perché è stata istituita una commissione d'inchiesta israeliana? Perché proprio il massacro di Sabra e Shatila provocò una tale onda d'urto psicologica, morale, nella popolazione israeliana e tra i militari israeliani, da scuotere alla radice il governo di Menachem Begin, che allora era il governo di centrodestra al potere. Questo portò alla istruzione di questa inchiesta. Inchiesta che rappresentò una sorta di psicodramma collettivo, diciamo, e si arrivò ad una soluzione che, devo dire, non soddisfò né gli uni né gli altri, nel senso che certamente l'esercito israeliano aveva favorito l'entrata dei falangisti cristiani nei campi, ma quanto avesse effettivamente collaborato, quanto avesse fornito mezzi, armi, soprattutto quello che è stato accertato di sicuro è che ha illuminato i campi a giorno in maniera tale da favorire il massacro, però tutto questo non ha portato poi a conseguenze dal punto di vista penale importanti. Sharon è stato allontanato momentaneamente da tutta una serie di cariche che ricopriva, ma poi ha continuato tranquillamente a portare avanti la propria carriera politica fino ad arrivare poi a diventare primo ministro, insomma. Dal punto di vista della storia del lungo conflitto medio orientale, come si inserisce questa strage? Rappresenta un punto di svolta molto importante. Diciamo che l'invasione israeliana del Libano dell'82, con tutte le conseguenze, compreso il massacro, è la prima azione di effettiva aggressione di Israele di un paese vicino. Cioè, fino a quel momento Israele aveva sempre detto che le sue guerre erano guerre difensive. Qui diciamo che, a fronte di azioni certamente riprovevoli dei guerriglieri palestinesi che bombardavano il nord della Galilea, però non erano schierati eserciti stranieri che minacciassero la sicurezza dello Stato. Veniva minacciata la stabilità di un'area di confine. Quindi c'è una svolta importante, storica, nell'approccio che Israele ha alla sua strategia di difesa militare dello Stato. Secondariamente, come ho già accennato, è la prima volta che da parte dell'esercito israeliano c'è una forte contestazione dei propri capi militari. Non scordiamo che proprio dall'esercito, dopo il massacro di Sabra Shatila, si ebbe la nascita del movimento Peace Now, pace subito, che metteva proprio in discussione questa strategia che ho appena illustrato, cioè di aggressione di civili. Un'ultima domanda, Marcello Emiliani. A distanza di 30 anni da quella strage, proiettiamoci ai giorni d'oggi. A che punto siamo nella lunghissima, contrastatissima, sanguinosa diatriba, conflitto in Medio Oriente? Per quello che riguarda la guerra israelo-palestinese più che arabo-israeliana, devo dire che siamo a un punto di grossissimo stallo. Sì. L'attuale governo, quello guidato dalla premier Benjamin Netanyahu, non riconosce nell'autorità nazionale palestinese un interlocutore con cui reintavolare dei negoziati di pace. Sappiamo inoltre che il campo palestinese è dilaniato e straziato da conflitti che vanno tra quello di Fatah e Hamas, ma la cosa ancora più grave è che credevamo che la frontiera del terrorismo islamico fosse stata raggiunta con Hamas, e invece adesso deve comparire se in scena la finti gli estremisti che contestano addirittura la stessa Hamas per quello che riguarda l'ortodossia islamica e le strategie militari con cui cerca di contrastare Israele. Il contesto internazionale del resto non è assolutamente più sensibile al vecchio conflitto israelo-palestinese o arabo-israeliano. Lo stesso premier Netanyahu ha come propria priorità quello di riuscire in qualche maniera a fermare la corsa al nucleare dell'Iran. Quindi non sono più i palestinesi la sua bestia nera, insomma. Grazie professoressa Emiliani, e buona serata. Buona serata anche a voi. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte della storia e la memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato alle strategie di avvicinamento dell'imperatore di Germania Guglielmo II verso il mondo islamico. Siamo nel XIX secolo. Gli europei controllano il mondo islamico, ma i musulmani combattono per la propria libertà. L'imperatore tedesco vuole sfruttare questa situazione. Il Kaiser Guglielmo II ha in mente di allearsi con il sultano turco in vista della Prima Guerra Mondiale. Insieme intendono scatenare una jihad contro gli inglesi. Vi ricordiamo che la versione integrale del documentario andrà in onda domani, domenica 30 settembre, alle 13:20, su History Channel. Gerusalemme, una città santa per ebrei, cristiani e musulmani. Un luogo venerato e aspramente conteso nel corso dei secoli. Nel Medioevo, imperatori cristiani e governanti islamici hanno combattuto sanguinose battaglie per il controllo dei suoi luoghi sacri. Dopo le crociate, Gerusalemme è diventata parte del mondo islamico. Il 29 ottobre del 1898, l'intera città è in festa. La gente affolla le strade per dare il benvenuto a un visitatore d'eccezione. Per la prima volta in 670 anni, un monarca cristiano fa il suo ingresso a Gerusalemme. È il Kaiser Guglielmo II. È qui come amico dei musulmani, non come un crociato. L'imperatore tedesco gode di ottima fama in Medio Oriente. A differenza degli inglesi e dei francesi, non ha conquistato alcun territorio islamico. Il motivo della sua visita è l'inaugurazione ufficiale della Chiesa del Redentore. L'imperatore, che è anche il leader dei luterani di Prussia, ha fortemente voluto la costruzione della chiesa. Guglielmo è fortemente colpito dal popolo musulmano. Il fascino del mondo islamico e dei suoi abitanti suscita nell'imperatore un'impressione indelebile. La visita di Guglielmo II fa parte di una precisa strategia. Alla fine del XIX secolo, molti musulmani sono ansiosi di contrastare la supremazia europea. I guerrieri della fede vogliono sfidare il più potente impero dell'epoca, quello britannico. In Sudan e in Egitto, paesi controllati dagli inglesi, un esercito di pastori e contadini male armati lascia dietro di sé una scia di sangue. Sean McMeekin, storico. La ribellione venne portata avanti in termini decisamente islamisti, come rivolta, anche se di modesta entità, contro gli infedeli europei. I ribelli raggiungono la capitale Khartoum, sede del governo britannico dell'Alto Nilo. Sono agli ordini del carismatico leader Mohammed al-Mahd. Credono che sia stato inviato da Allah per liberare il loro paese. Ancora lo storico McMeekin. Mohammed al-Mahd, della provincia di Dongola, dichiarò di essere il Mahdi, vale a dire la corretta guida, una sorta di profeta con la missione di liberare il mondo islamico. Khartoum cade il 26 gennaio 1865, quando un traditore apre i cancelli della città. I ribelli inferociti fanno strage della popolazione. La guerra mahdista è la prima vittoriosa ribellione contro una potenza coloniale in Africa. Una ribellione nel nome di Allah. Ancora lo storico McMeekin. La rivolta fu ovviamente vista come una seria minaccia all'autorità coloniale britannica. Non bisogna dimenticare, infatti, che l'impero britannico esercitava il suo controllo su una popolazione di molti milioni di musulmani. Alla fine del XIX secolo, 100 milioni di musulmani, un terzo della popolazione mondiale di fede islamica, sono sudditi dell'impero britannico. È il più grande impero coloniale mai esistito. Se la rivolta mahdista si diffondesse, la supremazia inglese sarebbe in grave pericolo. Londra è decisa a dare un esempio. Ma è solo nel 1898, 18 anni dopo l'inizio della ribellione, che l'esercito britannico riesce a fermare un assalto di ribelli a Omdurman, in Sudan. Gli inglesi possiedono una nuova arma devastante, la mitragliatrice. 10.000 soldati musulmani vengono uccisi in sole 5 ore. Gli inglesi perdono 500 uomini. Il massacro fa cessare la ribellione dei guerrieri della fede. Anche se l'impero è riuscito a soffocare la rivolta mahdista, l'episodio mostra quali terribili forze possono scatenarsi nel nome di Allah. Lo sprezzo del pericolo mostrato dall'esercito del Mahdi impressiona gli inglesi. Cosa accadrebbe all'impero britannico se questi guerrieri di Dio disponessero di armi moderne? Gabrielle Teichmann, storica. Gli inglesi e i francesi all'inizio del XX secolo temevano lo scoppio di una jihad. Erano consapevoli che il loro dominio sul mondo islamico sarebbe stato seriamente minacciato se i musulmani fossero stati adeguatamente preparati a combattere. Ma parallelamente, gli inglesi cominciano ad aver paura anche dell'imperatore tedesco, il Kaiser Guglielmo II. L'impero tedesco è diventato un potente rivale, sia militarmente che economicamente. In appena due decenni, l'industria tedesca ha sorpassato quella britannica. L'ambizioso imperatore vuole anche sfidare gli inglesi nel loro storico punto di forza, la supremazia marittima. Per questo dà inizio alla costruzione di una flotta in grado di competere con la Royal Navy. Poi, Guglielmo II aumenta ulteriormente la tensione. Nel tentativo di influenzare lo scenario politico ed economico, il Kaiser gioca una carta decisiva: il mondo islamico. Poche settimane dopo la sconfitta dei ribelli mahdisti, Guglielmo II organizza un viaggio diplomatico che lo condurrà al cospetto del sultano di Costantinopoli. Abdulhamid II sa bene che gli europei, specialmente la Gran Bretagna e la Russia, non aspettano altro che attaccare il suo ormai fragile impero. Il sovrano tedesco arriva nel momento giusto. È un alleato degno di fiducia, perché non ha alcuna mira espansionistica in Medio Oriente. Guglielmo ha con sé un regalo, un moderno fucile di manifattura tedesca. Il nuovo fucile Mauser permette di sparare fino a 15 colpi al minuto. È un dono simbolico, a riprova che il Kaiser desidera allearsi militarmente con il sultano. Il suo viaggio continua a Damasco. Durante un ricevimento nel palazzo del governatore turco, Guglielmo II pronuncia un discorso che finisce sulle prime pagine di tutti i giornali. Guglielmo promette al sultano che il Kaiser sarà sempre un fedele alleato dei 300 milioni di musulmani nel mondo. Sean McMeekin, storico. In un certo senso, il Kaiser stava interferendo negli affari delle potenze rivali, dichiarando che la Germania aveva un interesse privilegiato nelle vicende dei popoli musulmani. Questo non poteva che amplificare le paure e le ansie degli altri stati europei. Per sancire la presenza tedesca in Medio Oriente, viene realizzato un grandioso progetto, la Ferrovia di Baghdad. La stampa tedesca celebra la costruzione come un evento di portata mondiale. Lunga quasi 2000 chilometri, si snoda attraverso montagne e deserti. È il più grande investimento all'estero dell'impero tedesco. I suoi finanziatori ottengono in cambio una percentuale sui ricavi del trasporto su rotaia e il diritto a trivellare petrolio in un raggio di 18 chilometri da entrambi i lati della ferrovia per 99 anni. La linea crea un collegamento fra Costantinopoli e Baghdad. Un secondo ramo piega a sud, passando per Damasco, e arriva a Medina. Ma il pensiero che un giorno la ferrovia del Kaiser potrebbe trasportare armi tedesche fino alla frontiera egiziana spaventa gli inglesi. L'arteria principale dell'impero britannico, il canale di Suez, passa attraverso l'Egitto, controllato dagli inglesi. È di vitale importanza per accorciare la rotta verso l'India. Nell'agosto 1914 scoppia la Prima Guerra Mondiale. Il Kaiser ha isolato la Germania dal resto dell'Europa. Francia, Gran Bretagna e Russia hanno formato un'alleanza contro l'impero tedesco. Nonostante ciò, Guglielmo appare sicuro di sé. I tedeschi mettono in atto il piano Schlieffen, con l'obiettivo di sconfiggere rapidamente la Francia, per poi concentrarsi nella guerra contro la Russia. Ma nella battaglia della Marne, l'avanzata tedesca viene arrestata. Dopo appena poche settimane, l'esercito resta bloccato nelle trincee. Anche i più ottimisti fra gli alti ufficiali tedeschi si rendono conto che la guerra durerà molto a lungo e che le risorse della Germania potrebbero facilmente esaurirsi. Ma il Kaiser è convinto di avere un'altra carta da giocare. Guglielmo ritiene che gli inglesi siano solo una nazione di bottegai senza scrupoli. Decide di fomentare una ribellione dei musulmani contro la Gran Bretagna. Salvador Oberhaus, storico. L'impero tedesco non era assolutamente preparato per combattere una guerra su due fronti. Così pensarono di aver trovato una via d'uscita aprendo un terzo fronte in Medio Oriente. In altre parole, speravano di vincere la guerra con l'aiuto di milioni di musulmani. La Jihad del 1914 è conosciuta come Jihad in versione tedesca. La legge islamica dovette essere adattata per conformarsi alle specifiche richieste dell'impero tedesco. Le autorità militari tedesche si mettono all'opera per provocare una rivolta musulmana su scala mondiale. Avete ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo La guerra santa, la rivolta araba, per la regia di Kevin Burns, casa di produzione Gruppe 5 Film Production, titolare dei diritti ZDF. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda domani, domenica 30 settembre alle 13:20, su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo.